A differenza di molti loro colleghi dei tempi che furono, gli etimologi del giorno d'oggi tendono ad escludere che quel tessuto rado e leggerissimo di cotone che chiamiamo Garza derivi il proprio nome da quella stessa città di Gaza, cara al popolo della Palestina, oggetto di tante contese. Pare che nel Medioevo si parlasse di un garzare, di un garzo, come di un cardo da scardassare, ovvero di un'operazione in grazia della quale la fibra del cardo veniva districata dagli altri elementi della pianta. Capitando in largo anticipo alla stazione centrale di Milano, al viaggiatore potrà risultare istruttivo soffermarsi nell'atrio al piano terra. Ivi, animato da spirito scientifico, munito di acribia critica e di un buon metro, potrà rendersi conto di quanta acqua sia passata sotto i ponti e sotto qualcos'altro di più rotondeggiante. Il nome delle mutande è lo stesso, ma le mutande sono diverse, a meno di un intervento davvero invasivo del re dei trapianti, diverse sicuramente sono le ragazze. Le mutande si chiamano ancora Roberta, ma la farfalla colorata appesa alla lunga treccia non c'è più. La stoffa occorrente è cambiata di qualità e in meno, e drasticamente in meno di quantità. La ragazza è ancora di spalle, ma il sedere non è più quello. Non voglio con ciò affermare che le natiche del 1983 hanno seguito il tragico corso insito nella loro ineluttabile biologicità, ma piuttosto, ecco, voglio dichiarare che nel lasciare il posto ad altre hanno dovuto soccombere ad un processo che con il biologico non ha nulla a che fare, che attiene invece direttamente e pienamente alle sfere, è il caso di dirlo, alle sfere dell'ideologico. C'è più carne scoperta, perché il lembo che rimane si infila, presumo, fastidiosamente nel divisorio, e ci sono proporzioni diverse a caratterizzare il rapporto tra natiche e spalle, con un vantaggio di queste ultime che porta la femmina verso una geometrizzazione di tipo futurista. La schiena è più sottile, sì, e la carne, ecco, più sferica, è complessivamente molto meno. Come se nell'imperativo della dieta ci fossero servite porzioni di sedere forse più equilibrate dal punto di vista metabolico e forse più nutrienti, ma irrimediabilmente inferiori. E ancora di nuovo ed ideologicamente preoccupante, c'è il fatto che se nell'inforcatura del 1983, costituita da sane cosce ampie e ben tornite, non sarebbe passato uno spillo, in questa inforcatura da primissimo terzo millennio ci passerebbero appaiati un ferro da stiro ed una caffettiera. Nell'evoluzione dei modelli di bellezza femminile, è noto, interagiscono fattori di natura diversa. Da un lato preme la cultura della magrezza e delle sue correlazioni, i tempi e i modi della vita sociale, gli ideali del benessere e della ginnicità da ottenersi fino al costo più contraddittorio dell'anoressia, la dinamicità e la sua durata, di questa dinamicità della culla alla tomba. Dall'altro preme una riforma della morale sessuale che non solo ci permette di vedere ciò che prima non dovevamo vedere, ma anche di rappresentare schiuso ciò che prima doveva restare ben serrato. Il che, se conferma che dal punto di vista cognitivo il sedere è ormai tutt'altra cosa, ci rivela anche qualcosa sulla sua natura di segnale, non di invito ma di garanzia. Una garanzia al di là di ogni ragionevole dubbio. Infatti la pannicolite, ovvero quel processo infiammatorio a carico del tessuto fibroadiposo sottocutaneo, ricategorizzata come inestetismo, come se l'estetismo fosse di per sé portatore di valori positivi, è diventata quella mostruosità a portata di tutta la biologia femminile contro cui urge la mobilitazione generale, che prende il nome di cellulite. E il nuovo sedere deve mostrarsene mondo. Nelle vetrine delle farmacie in questi anni l'ho vista rappresentata visivamente in tre soluzioni. Allora, come buccia d'arancia, come pelle d'elefante e più recentemente come fodera trapuntata. Si tratta di tre soluzioni accomunate da uno stesso elemento costitutivo, che è l'involucrità. Cioè, la cellulite è rappresentata come qualcosa che del corpo non fa autenticamente parte integrante, come qualcosa di sostanzialmente estraneo al corpo e come tale sradicabile, eliminabile. Il frutto che si mangia, d'altronde, tanto per rimanere nell'analogia, è l'arancia, la buccia si butta. Il corpo, allora, quello vero, il corpo vero della finzione ideologica, è quello che ci sta sotto, pronto a comparire non appena si abbia l'abilità o la buona sorte di applicare la giusta pozione. Che la lotta alla cellulite sia una missione che inizia nell'estetica e prosegue nella morale è un fatto reso ancora una volta evidente dall'ultimo kit, come si gira, che giura sulla guerra lampo, facile e veloce, come hanno detto Napoleone, Hitler, Mussolini, Bush, Blair, Berlusconi e quant'altri, facile e veloce per ottenere glutei perfetti. L'hanno battezzato bioethic. E nonostante l'Y, il nome promette il paradiso della correttezza eterna ad entrambi i contraenti del patto sacro che lega il produttore al consumatore. La ragazza che dovrebbe orientare alle scelte ovviamente non sembra averne affatto bisogno. Ha un sedere perfetto, incastonato in un corpo che per nostra fortuna non estende il processo evolutivo di Roberta, cioè non accentua quella simmetria del rapporto con le spalle, non assottiglia ulteriormente le cosce perché c'era solo più l'osso, ma in compenso divarica le gambe di quel tanto che, oltre al ferro da stiro e la caffettiera, questa volta ci può passare anche la lavastoviglie. È ripresa poi dal basso verso l'alto e da una distanza sufficientemente ravvicinata per farci prendere coscienza di un ulteriore spostamento ideologico. Il tessuto del costumino si intrufola negli interstizi più delicati, ma non più per l'esiguità della stoffa e per la sua elasticità, ma piuttosto per la sua stessa inconsistenza. È sfrangiato, sfilacciato e etereo fino a perdere la forma, copre non copre, è più tolto che messo, sembra fatto di garza, ed è questa sua intrinseca improvvisatità, che nella disinvoltura di un gesto e di una posa ne rivendica tutto il suo immenso potere di attrattore sessuale, innescando al contempo, con tutta la grevezza di un imperativo categorico, il ricatto più bieco a chi intendesse astenersene per mille buone ragioni sue, comprese quelle di averci un sedere devastato dalla cellulite. Volendo affondare nei tempi biblici l'investitura ideologica della cellulite, ci si potrebbe riferire al problema della regina di Saba, di cui l'Antico Testamento non ci dice il nome, ma di cui in compenso conosciamo l'esigenza impellente. Andò in visita a quello che passava come il più saggio dei re, Salomone, e vi fu tra loro uno scambio di doni e di qualcos'altro, visto che più tardi ne nacque Menelik. Accreditando Salomone almeno di un pizzico della saggezza presunta, ciò dovette avvenire prima di recarsi sul Mar Morto, dove, in cerca della bellezza perduta, si sarebbe affidata alla speciale salinità delle sue acque. Colei che, per altri, questa regina di Saba, che per altri è Balchis o Macheda, rimase anonima nella Bibbia, come si diceva, anche perché la storia la scrivono i maschi, e Salomone, per uso personale, ebbe la modica quantità di 700 mogli a fronte di appena 300 amanti, una situazione in cui anche al più saggio dei re può capitare di dimenticare un nome.